l'osservatorio nella rotazione dei 45 gradi e poi sono andato su e l'ho riportata a zero, ho messo l'osservatorio nuovamente al nord. Sono cose che succedono quando c'è le direttive, purtroppo, sono cose che succedono. Vabbè. Mentre la prima volta mi si è attaccata la fascetta del cavo, si è attaccata al PL. Sai, anche quando si mette la direttiva, siccome gira, devi lasciare almeno 80 o un metro di in bando il cavo, in modo che quando gira non si arrotoli assieme all'antenna. Io era, c'era la fascetta, si è rotta la fascetta, non so come ha fatto, non lo so perché sono quelle fascette abbastanza grosse. Comunque sono andato a girare l'antenna, ho visto che intorno ai, facendo la rotazione da nord a sud, superato sud, iniziando a 120 gradi sud-est, non avevo più ricezione. Sono andato su e praticamente mi aveva, si aveva portato per 120 gradi tutto il cavo, si era arrotolato il rotore e quindi ha staccato il PL, capito? Ha strappato proprio il PL, quindi ho rifatto tutto, ho rimesso a posto. Sono cose che succedono, niente di particolare. Avevo visto installazioni di quel tipo su internet, sì, raccomandavano di lasciare il cavo bello abbondante in modo che facesse, diciamo, 360 gradi, no? Lo giri da una parte e dall'altra, non come qualche furbo che lo mette giusto, e alla prima girata glielo straccia, gli straccia il PL. Non si può mettere giusto, assolutamente. Io ne ho due, una sopra l'altra, non si può mettere su tutte e due con almeno un metro in bando, fascettati, perché quando gira l'antenna, me ne sono accorto, sino ai 180 gradi era tutto a posto. Superati i 180 gradi ho iniziato a praticamente a non sentire più, in 10 metri, quindi ho detto, qualcosa è successo, ho rimesso a zero, mi sono rimesso al nord e non sentivo più assolutamente, quindi si era già staccato proprio, come era in tira, che il rotore non metteva fermo così facilmente, come stava girando, si è portato via il polo centrale del PL, quindi non ricevevo più, sono salito su e ho messo la porta, ho rimesso tutto a posto la settimana scorsa, dicevamo quelle belle giornate, adesso è tutto che rifascettato, un doppio fascetta, quelle grosse, insomma, è tutto vulcanizzato, tutto messo in ordine, e così siamo posto per l'inverno. Comunque quando sei disponibile non c'è problema, andate a fare un fischio e si piazza l'antenna come Cristiano, non ti preoccupare. Vediamo un po', la ricezione di questa a certi punti è bassa, c'è poco da fare. Addirittura l'altra sera c'era Antonello Barracuda sui primi canali, stavo parlando con uno di Chiaramonti ho visto che poco, siamo 21 km da dove siamo noi, che sono 20-21, eppure arrivava in banda laterale a filo di, arrivava praticamente zero di segnale e sentiva radio 4, radio 3-4. Quindi già a Chiaramonti io non ricevo, se non fosse stato per la banda laterale non sarei riuscito a sentirlo lui. Non mi ricordo il nome però, come si chiama quello di Chiaramonti? Gianni Di Ramite. Mi pare che hanno detto che lui. Capito, se non fosse stato per la banda laterale io non l'avrei sentito in AM, eppure sono solo 20 km, è misera la distanza. Io credo fossero di più. Ma secondo me stai sbagliando tu con Boaghe. Guarda che Chiaramonti da Sassari, considerando che devi fare, che è dietro Osido, è più di 20 km. Tranquillo, perché Chiaramonti è 6 km da Perfuas e Perfuas da Sassari sono 46 km, quindi dovrebbe essere una quarantina buoni, però dove abita Gianni è molto alto, qua arriva, a volte arriva anche a segnale 9 Gianni, a 7, a volte 8, dipende cosa sta usando, perché c'è tante radio, quindi qualcuno c'ha un po' di watt in più, l'altra ne ha di meno, ma c'è un ottimo segnale, qua è sempre con un buon segnale dove ricevo io. Qua invece no. Vabbè, conta l'antenna, fa la sua parte, è una bassa ricezione. Io ho preso Google Map. Google Map, sì, praticamente la mappa, no, della Sardegna, ho visualizzato, ho ingrandito un po' e ho fatto, ho usato il righello che ti dà la giacca misura, praticamente dalla zona mia a Chiaramonti, al centro di Chiaramonti ho contato, erano 21 km e fruscia. Ah beh, così diretto sì, però se fai la litoranea in uscita da Scala di Ciocca, tu consideri da lì, fai la litoranea che passa a Poaghe, sono una quarantina di chilometri, 36, 40, una cosa del genere. Io te lo dico perché l'ho fatta per tantissimi anni quella strada per lavoro, e quindi azzeravo 90 chilometri e mi dava sempre più o meno quello, 38, 40, 36. Quello perché ho misurato la portata ottica, proprio ottica, no? Linea retta, con la funzione righello, te lo dice in chilometri, in miglia, come vuoi tu. Vabbè, comunque sia, banda laterale fa molto, banda laterale molti non la usano, esiste solo la M. Invece la radio è molto più versatile, quando non ci senti la M si può modulare in FM, quando non batte l'FM c'è la banda laterale. Lo so, la banda laterale ne usiamo poca, ma noi in città usiamo la M, però ti ripeto, è questione di usi, a me l'FM non è mai piaciuto perché devi tenere per non sentire tutto quel casino. Squelch, e poi il tuo, soprattutto che lo squelch non regola in cioè regola in FM, mi pare sì, in AM che non regola, no? Funziona solo in FM. Esatto, mentre 430 funziona in SSB, funziona in FM, in AM, c'è un doppio tutto, e quindi una dottoressa devi tenere lo squelch chiuso. Se chiama qualcuno che non ti apre lo squelch, non lo senti, mi dà fastidio, capito? Come già è successo negli anni passati, che abbiamo provato un sacco di volte a fare QSO in FM, e poi alla fine ci spostavamo in AM perché c'era sempre qualcuno che o non aveva l'FM, come le radio americane che ho io non hanno l'FM, hanno la M e la banda laterale, ma l'FM non ce l'hanno, capito? Sono molti che hanno baracchini vecchi e non hanno l'FM, e quindi toccava modulare qua in AM, tutto uguale. Lo so, infatti ne stavano parlando degli americani su un forum, che quelle radio usano loro, Magnum, Galaxy, e praticamente per il mercato europeo gli mettono il contentino, come l'hanno definito loro, il contentino dell'FM, perché dicono in Europa è usata soprattutto quella. Magari è usata in Francia, in Germania, da noi no, ancora noi siamo per la M. A me piace l'FM, la verità, però quando uno è troppo basso non riesce a passare, non si comprende, capito? È così. Vabbè, però già è una bella frequenza anche quella, molto pulita, ordinata, le radio vanno molto bene, non sono molto sacrificate, capito? Quindi poi alla fine insomma già va bene. Ottimo per la truppa, ero più rotto, non si è sentito. No, io ero sul 5, ma non ho sentito, non ha chiamato. Ho sentito Gianni KP2, l'altro con cui parlavo invece non lo ascoltavo. Sentivo QRM e propagazione, basta. E l'altro era Altieri. L'altro stava parlando da Altieri, lui ce l'ha attaccato, quindi è chiaro che lo sento bene, ma già arrivato qua molto bene. So anche chi è. Prima se continua a uscire sarà di Durabogo. Eh sai cos'è? Magari sono i primissimi giorni. Io per il Mike Gain, io senza toccare il Mike Gain non lo toccherò più, lo lascerò sempre sotto la C. Se devo diminuire, ecco qua, levo il processore e tutto qui. Se devo diminuire ancora, limite sotto, gli levo l'amplificazione dalla la funzione, come si chiama, via. Mic amp c'è, in e out. Se lo voglio normale, per qualche motivo lo metto out. Se lo voglio amplificato lo lascio in. Aspetta, metto il processore. Ecco, il Mac Gain non lo tocco più. Invece per fare tutte queste manovre, togli il processore, in e out, abbassati l'impedenza e tu sei a posto. Anziché a 50 lo metti a 500. Che poi ho sbagliato io ho letto il manuale ma ho preso una cartonata. Allora dice che per il CW doppio, fanno vedere anche la foto, l'immagine, per il CW doppio bisogna fare all'interno della zona ALC. Per l'FM invece mi pare che non dica della zona LC. Per l'FM c'è un'altra cosa, c'è scritto un'altra cosa, però l'LC non c'entra. Sì, Marco, va bene, ma se tu stai appresso al manuale, quella radio non la usi, capito? Siccome quella radio è praticamente proviene da qua, quindi tu lascia perdere tutto quello che dice il manuale. Ascolta Gio Claudio, tu lascia perdere le C e tutto, tu quando moduli in AM moduli così, nessuno ti può dire niente perché è fantastica la modulazione, è fortissima, bella, chiara, non strappa, è eccezionale. Se poi vuoi diminuire la modulazione perché secondo te è troppo alta, senza attaccare il processore, toccare il mic gain, hai il 60, ti abbassi l'impedenza da 50 a 500 e stai un certo che è a posto. Anche quella vale. Io, ma però la più appropriata è 50 per questa radio, no? Beh, 50 è la spinta che abbiamo adottato in passato quando abbiamo iniziato a fare proprio questa radio, quindi io in prima persona. A me piace 50 kg. Se tu la abbassi, la metti a 500, tende un pochino a smorzare la modulazione, ma è sempre molto bella, anziché stare a togliere il processore, mettere in posizione out il 60, più abbassi l'impedenza si apposta. Ecco, ho capito. Poi ho imparato anche questo NB, questo noise blanker. Quando lo inserisco ti sento male. Arrivi come sciacquero, se lo levo arrivi bene, quindi non emetto. Tanto per quel che fa è quasi inutile. Mi sono reso conto che molte modulazioni che io ascoltavo come sature brutte, una volta tolto l'NB1 le ho ascoltate bene, tutte e due le ho tolti. Cioè l'NB2 non l'ho mai usato, l'NB2, l'NB1 lo usavo e adesso non ne uso più. Certo che c'è scritto NB level, ok, level vuol dire noise blanker a livello, quindi è un noise blanker manuale, non è come quello del 430, del 440 che c'ha il filtro inserito, quel filtro non ha, quindi NB level te lo devi livellare tu. Allora se tu inserisci adesso l'NB, ok, e la leva dell'NB la metti a metà, tu mi ascolti come mi ascolti senza inserire l'NB, però attenuandoti quelle che sono i rumori di moto, i rumori di scariche elettrostatiche e quant'altro. Vuoi provare? Tu metti, inserisci NB, mentre io sto parlando, la levetta dell'NB level, la metti a metà, ok? La metti a metà la levetta dell'NB1, la metti a metà, e tu stai pur certo che non sbaglio. Fatto, messa a metà, vediamo se è a metà giusta, metà, e infatti è stato così, ha migliorato la modulazione, che a orecchio sembra uguale a quando l'NB è escluso, e ho imparato un'altra cosa, invece qua era non dico la massima, era in una scala da 1 a 9, da 1 a 10 era 9 praticamente, era regolato alto. Leggermente, leggermente anche meno di me. Ti tieni la stessa modulazione come sul ricevitore, però automaticamente avendo inserito l'NB e avendo ridato il livello di tonalità per quanto riguarda la ricezione, hai inserito manualmente il filtro che ti permette di attenuare i rumori delle motocarrozzelle, eccetera, eccetera, e i rumori delle scariche elettrostatiche, tenendo però al livello il ricevitore, quindi ecco come si chiama NB level. Buono, buono. Ecco qua, l'ho messo appena meno della metà, proprio un tantino sopra la metà. E adesso è quasi come se fosse disinserito, diciamo, da. Lo lasci così e vedrai che non ci sono problemi. Non ci sono problemi, ecco la radio, la conosco, la faccio apprezzare le piazze, no? Non ci sono problemi. Non ci sono problemi. Poi quella soprattutto è eccezionale, ecco qua che sono arrivate le pizze e ora andiamo a cenare. Quella a livello proprio personale ti posso garantire che veramente ti ho detto di fare quella manovra perché ti avrei garantito tranquillamente di tutto e di più, quindi tienitela molto stretta perché ce ne sono poche come quella. Ok, va bene, non so se tu debba andare a cena, io mi dedico un attimino al computer, dimmi tu. Sì, ma qui vado a mangiare, che non abbiamo le pizze, mangiare un boccone e poi se ci siete, io sono qua sul 10, sul 5, c'è troppo QRM, è un canale molto molto QRMato, quel pieno di americani, e quindi rimango qua in ascolto, ceno e poi ci sentiamo di difetti più dal computer, queste prove le abbiamo fatte e no, non ci sono problemi. Se qualcuno ascoltasse, mandò a una di quelle radio e ci stare sempre toccando, vedi che le dura di più e esce bene come stai uscendo tu. A dopo Marco Lì. Ok, a dopo, buona cena. Grazie a te.